La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L'articolo 20 rappresenta una ulteriore garanzia per gli enti religiosi, perché garantisce la piena parità di trattamento degli enti religiosi e il fatto in particolare che il carattere religioso, ecclesiastico o di culto di un'associazione, di un ente, non possano essere cause di discriminazione. È ben evidente il sapore anche storico di rottura col passato di un articolo del genere, che garantisce che la piena libertà religiosa possa essere esplicata per tutti, non solo con l'eguaglianza sancita dall'articolo 8 e già dall'articolo 3 delle confessioni, non solo con la libertà personale di professare, propagandare, esercitare la religione, il culto nell'articolo 19, ma anche istituendo enti che non devono essere discriminati per il carattere religioso. L'articolo 20 della Costituzione ha anche un'applicazione reale e concreta, perché è riuscito ad essere l'ombrello che è andato a garantire tante situazioni concrete in cui organizzazioni e enti che perseguono finalità di culto, anche talora discusse, hanno trovato una piena copertura della garanzia di parità. Gli esempi storici sono essenzialmente due, uno risalente a qualche anno fa riguardante il buddismo e le associazioni buddiste, che in Italia qualche anno fa non erano così diffuse, e più di recente invece per un'associazione di carattere molto discusso come Scientology, che tuttavia ha avuto in giurisprudenza il pieno riconoscimento della copertura dell'articolo 20, cioè un ente creato a fini religiosi, a fini di culto, non deve essere perciò discriminato e deve avere le piene garanzie riconosciute agli enti di altra religione. Anche qui, Costituzione aperta, Costituzione liberale, Costituzione che guarda lontano, presbite.